fare brutti sogni accanto alla sua donna e al figlio che si lagna, aspira la sua colla. Sparge sui corpi vergini, sugli occhi stupiti, al centro le origini dei mondi mai nati. Okay.